al cielo, guardi il tramonto, ti copri con un velo dal tormento, da un passato cruento, da un passato cruento. Un'illusione piena di bramosia, e poi del bene accanto all'ipocrisia, di un'Ave Maria, di un'Ave Maria. Ma guardo gli occhi più belli e mi consolo, ne basta uno solo. Gli occhi di una madre innamorata, di una fata in una fiaba. Gli occhi dei figli e di un nero dolore, gli occhi tuoi per un mondo migliore. Lasciami gli occhi ed il mare e quelle nuvole da leccare, come zucchero filato, tentativo dolce disperato. Ricordo quel falso sollievo, dove nel ritrovarmi mi perdevo. Scusa il rancore, e se son vecchio nel cuore. Sono antico fuori dagli schemi, da tardo impero e crisantemi. Ma stanotte ti sposo in un sogno curioso. Qualunque, un crocifisso valido per tutti. Gli occhi di una madre innamorata, di una fata in una fiaba. Gli occhi dei figli e di un nero dolore, gli occhi tuoi per un mondo migliore. Lasciami gli occhi ed il mare e quelle nuvole da leccare, come zucchero filato, tentativo dolce disperato. Mentre cado da un'età, di un passato vissuto a metà, fra le tue braccia cambia il mio destino. Mi lavo la faccia e ritorno bambino. Gli occhi di una madre